24 mattino. Stamattina, come di consueto, ore 5 al bar del mercato a far colazione, tutti, contadini, chi conferiva, dirigenti, tutti che parlavano di prescrizione alle 5 di mattina. Hai sentito Matteo Renzi, la prescrizione, cosa ne pensi di questa prescrizione? Tutti, tutti preoccupati per la prescrizione. Caro Simone, la Corte dei Conti ogni anno, sempre, fa le stesse raccomandazioni, sempre, sempre, sempre, risultati zero, zero, zero. Ma Simone, l'unica crisi di cui se dovremmo preoccupare è quella da Roma. Renzi deve stare tranquillo, dove va? Non c'ha i voti neanche per tornare a casa sua. Il maledetto Giorgio De Luca ficca sempre un WhatsApp sulla Roma. Maledizione, maledizione. Eh sì, sì, la questione della prescrizione, non so, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, non che non sia importante, ripetiamo, cioè è una questione di civiltà giuridica e insomma un pezzo della crisi della democrazia, alcuni sostengono, dovuta al fatto che abbiamo smesso di occuparci di cose così che sono importanti per le persone, per i diritti delle persone. E però è vero anche che, come ci diceva Claudio Velardi prima, non è che discutere di prescrizione ti impedisce di parlare di altro. A partire da quello che troviamo un po' su tutti i giornali oggi, no? Il calo del, o meglio, le previsioni della Commissione europea sulla crescita del PIL, che tra l'altro alcuni ritengono essere ottimisti, con più 0,3% nel 2020, dato peggiore in Europa. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:22 minuti, al microfono sempre Simone Spezia e è venerdì 14 febbraio, che poi non l'ho detto, è San Valentino, oh sì, auguri a tutti gli innamorati. E siamo alla parte dedicata alla rassegna stampa, nella quale non parleremo di San Valentino, anche se ovviamente c'è sempre qualche pagina di giornale che ci racconta l'amore al tempo dei social, al tempo degli algoritmi. Il regalo all'ultimo minuto. Allora, le prime pagine, le aperture. Renzi Conte sfida sulla crisi è il titolo del Messaggero. Alta tensione tra Renzi e Conte, il Corriere della Sera. Conte Renzi, governo in bilico, la Stampa. Qui viene giù tutto, titola la Repubblica. Capolinea Conte, titola il Giornale. Conte scopre il bluff di Renzi, se esce entrano i responsabili, il Fatto Quotidiano. Apre sul fatto che piovono tasse su PC e cellulari, la Verità, e sono le nuove tariffe per la cosiddetta copia privata, quello che serve di fatto a sostenere la SIAE. Sono state alzate alcune di queste tariffe. La sfida di Renzi a Conte è il titolo di Libero. Il doppio rischio è quello di Avvenire. Sceglie un'apertura diversa il Manifesto. Supporto d'armi. Oggi il presidio di Camalli, sindacati e associazioni sotto la prefettura di Genova per chiedere lo stop alle navi con a bordo armi per la coalizione che bombarda lo Yemen. BTP triennali, domanda boom a tassi sotto zero, il titolo del Sole 24 Ore. E il quale Sole 24 Ore ci parla anche dello studio su una mini IRES per chi torna in Italia, per chi rilocalizza. E poi, e ci arriveremo tra un attimo, visto che di problemi del paese parliamo, opere prioritarie, ultimato solo il 21%, ci racconta Giorgio Santilli. Ci arriviamo a questo pezzo. La Gazzetta dello Sport, CR7 rovescia, rabbia Milan, parliamo della Coppa Italia di ieri, l'uno pari, e poi questa cosa che farà discutere tutti al VAR, la FIGC alla FIFA, fateci provare la chiamata degli allenatori per il VAR, un po' come il challenge nel tennis. Iniziamo come sempre però da un po' di cose laterali, insomma non proprio centrali nelle pagine dei quotidiani, poi arriveremo più avanti con Paolo Mieli anche a tutta la parte politica e non solo a quella, però dato che è venerdì fatemi iniziare con due storie un po' più leggere che fanno discutere, se vogliamo un po' di chiacchiere da chiacchiere da bar, però ci stanno. Allora il primo le troviamo tutte e due su Repubblica, nelle notizie in breve, a pagina 25, la prima arriva da Modena, un esperimento che sta già facendo discutere, sono 20 righe. Non più i voti accanto alle materie in pagella, ma un metodo di valutazione sperimentale che avverrà attraverso un confronto tra le percezioni dei bambini, che compilano una scheda di emoticon, e quello dei docenti che ne compilano un'altra da confrontare assieme. È il progetto presentato a due classi prime di una scuola elementare della città, la Rodari. E dunque non i voti per i bambini delle elementari, ma le emoticon, la faccina, quella sorridente, quella triste, eccetera, eccetera, il confronto tra queste emoticon e quelle date dai docenti contrari. I sindacati, con tutti i problemi che la scuola deve urgentemente affrontare, commenta Maddalena Gissi della CISL, è come pensare alla fontanella dell'acqua mentre il palazzo brucia. Mentre dalla UIL scuola si definiscono basiti. E poi, sempre tra le notizie in breve, Bolzano, cosa fa la stretta del comune contro i padroni di cani incivili? Cosa succede? Animali, ma soprattutto padroni maleducati, hanno le ore contate a Bolzano. La multa al primo sgarro sarà assicurata. Chi ha un cane dovrà infatti sottoporlo ad un prelievo del pelo o della saliva per mapparne la genetica. Quando tutti i cani del territorio saranno censiti, partiranno i controlli delle eventuali deiezioni abbandonate su strade e marciapiedi. Dunque, le guardie ecologiche e comunali non avranno la necessità di cogliere sul fatto il trasgressore che non ha raccolto l'escremento, dato che da lì il DNA del cane potrà essere individuato, quindi si raccoglie il campione, si verifica, si va dal proprietario e le multe potrebbero essere alzate anche oltre i 100 euro attuali. Niente male l'operazione di Bolzano. Venendo a cose un po' più serie, sta andando avanti l'indagine sul deragliamento, quello della settimana scorsa, sulla linea ad alta velocità, insomma quella del Frecciarossa, quella nella quale hanno perso la vita due macchinisti. E ci racconta Cesare Giuzzi a pagina 16 del Corriere che dopo un primo momento nel quale si è detto errore umano, dopo un secondo momento nel quale si è parlato di contatti elettrici che non hanno funzionato, quello che sta emergendo in queste ore è uno scambio difettoso. Qual è il racconto che ci fa Cesare Giuzzi? E ci dice innanzitutto che c'è anche l'amministratore delegato di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, tra i nuovi indagati nell'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa di Lodi. Il nome del manager è finito nel registro degli indagati per consentire gli accertamenti tecnici sulla catena di realizzazione e controllo dell'attuatore prodotto da Alstom nello stabilimento di Firenze e che gli operai avevano installato la notte dell'incidente durante i lavori di manutenzione. Si tratta di un elemento decisivo per regolare il movimento del deviatoio, in sostanza il motore che muove le rotaie che fanno spostare il treno dal binario di giusto tragitto a quello di servizio. Insomma, il nuovo attuatore aveva un difetto interno di fabbricazione, un'inversione dei cablaggi. La notizia è stata data all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dal procuratore. L'Agenzia Nazionale delle Ferrovie ha girato la notizia naturalmente alla National Safety Authority dell'Unione Europea e a questo punto l'allarme si estende a tutta l'Unione Europea e l'attenzione è massima su questi deviatoi, appunto, che potrebbero essere difettosi. È pagina 16 del Corriere, il pezzo è di Cesare Giuzzi. La Stampa invece a pagina 15 ci porta su una vicenda che si trascina da molti anni ed è un'emergenza sanitaria che sta diventando sempre più preoccupante. È la discarica dei veleni dell'ex stabilimento Montedison nella Valle del Pescare, siamo naturalmente in Abruzzo, a Bussi sul Tirino, la scoperta della più grande discarica abusiva d'Europa. veleni targati Montedison sparsi su 170.000 ettari, 700.000 persone che per 25 anni hanno bevuto l'acqua contaminata dell'acquedotto di Campo Pozzi. E questa era una storia ormai nota, insomma, la riassume così Gabriele De Stefani, appunto a pagina 15 della Stampa. Quello che succede è che questa marea di veleni che sono sepolti in quell'area stanno producendo adesso anche dei gas. L'aria si è ammalata per colpa di quei vecchi scarti chimici cancerogeni che ora hanno raggiunto lo stato gassoso ed escono dal sottosuolo. Più di 80.000 residenti li respirano. E l'appello delle associazioni che se ne stanno occupando e anche dell'Istituto Superiore di Sanità è che serve subito un'indagine epidemiologica approfondita sulla popolazione. Due discariche autorizzate erano ma riempite di sostanze vietate, un terzo impianto abusivo da 500.000 tonnellate, veleni gettati nei fiumi, una falda acquifera definitivamente compromessa. Al maxi processo contro i manager Edison, dopo la richiesta di 180 anni di carcere per i manager, tutto si è risolto tra assoluzioni e prescrizioni. La Cassazione ha riconosciuto i reati però di disastro ambientale e avvelenamento e ora la battaglia si è spostata davanti al giudice civile. Ma il tema è esattamente che potremmo trovarci di nuovo di fronte ad una nuova, ulteriore emergenza sanitaria. Prima di andare a chiudere questa prima parte andremo con Paolo Mieli alla parte più generale, quella dedicata alla politica e non solo, beh, c'è una piccola storia che arriva sempre dalla Stampa e siamo in questo caso a pagina 17. È il reportage di Nicolò Zancan da Villa del Conte, dove la sindaca ha deciso, insomma, vista la burocrazia disumanizzata, è spuntato l'assessore alla solitudine, il primo assessorato alla solitudine. Calma, andiamoci piano con la parola solitudine, dice la sindaca Antonella Argenti. Non vorrei che venisse fraintesa. Noi non intendiamo la solitudine esistenziale, non è tristezza, ma lo smarrimento dei cittadini di fronte a una società sempre più robotizzata. Rivendite di legnami e trattori, la statua in memoria dei caduti della patria, un orizzonte di campi coltivati, Villa del Conte, 5.700 abitanti. La sindaca era una candidata con una civica di centrodestra. Che cosa succede? Tantissime persone sono venute a trovarmi in ufficio e di qui l'idea, appunto, di realizzare una sorta di assessorato alla solitudine e di distribuire i numeri dei cellulari della giunta a tutti i cittadini. Una pausa, tra poco. "24 Mattino". Allora, eccoci di nuovo con Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno, come stai Paolo, bene? Bene, grazie, e tu? Abbastanza bene, però ti sento orrendamente, vediamo se riusciamo a sistemare. Io mi sento benissimo. Ottimo, adesso va decisamente meglio. Eccoci qua, allora. Iniziamo con, ovviamente Paolo, le questioni politiche che sono un po' l'apertura di tutti i giornali, no? Con queste tensioni nuove all'interno della maggioranza, l'idea, secondo alcuni quotidiani, in particolare mi riferisco alla Repubblica, che Renzi sia intenzionato a sostituire Giuseppe Conte, cioè arrivare a un governo con Draghi o con Gualtieri, eh? Qui viene giù tutto, hai visto il titolo? Sì, qui viene giù tutto. Sì. Tra l'altro forse non è nuovo, forse l'avevo già visto qualche altra volta nei mesi scorsi. Comunque, vai, forse è un déjà vu, per carità, prego. Comunque teniamolo a mente, perché secondo me è un titolo di quelli che è destinati a tornare. Nel senso che quasi tutti gli osservatori che ho letto sui giornali, anzi direi tutti, pensano che quello di Renzi sia un bluff, che non viene giù niente, che Renzi alza la voce per tenere il campo, ci sta riuscendo ottimamente, nel senso che ogni giorno è protagonista sulle prime pagine dei giornali, ma poi dal momento che, come dice la stessa Repubblica, come dice da tempo Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, Conte ha pronto alcuni berlusconiani parlamentari messi a disposizione di un manipolo, sì, coordinato da Gianni Letta, che sostituirebbe i deputati renziani. Se Renzi spinge la sua offensiva al massimo, che voglio che ti dica, vedo che su Sole 24 Ore l'articolo di Emilia Patta mette come titolo la cosa centrale: Conte telefona al Quirinale, perché ieri sera c'è stato un consiglio dei ministri in cui non si sono presentati i ministri di Italia Viva, cioè i renziani. Conte cosa ha fatto? Ha telefonato al Quirinale, e tutti pensano che questa telefonata al Quirinale sia stata per avvertire Mattarella che lui ha pronto una ventina, poi lui l'ha smentito, ma ormai le smentite non dà retta a nessuno, ha pronto una ventina di senatori, deputati, pronti a dargli la maggioranza nel governo. Il PD si è schierato nettamente dalla parte di Conte, praticamente una guerra. Mettiamo che facciano la pace, io non riesco a capire come potranno poi stare insieme PD e Italia Viva dopo quello che si sono detti, e quindi potrebbe io sono cauto, potrebbe essere una tempesta in un bicchiere d'acqua. Diciamo che sullo stare insieme dopo essersi detti di tutto nell'ultimo anno abbiamo visto un po' qualsiasi cosa, caro Paolo, quindi insomma, quello può anche starci. Voglio tra l'altro segnalare un altro paio di cose relative alle questioni politiche, in particolare andiamo dalle parti della Lega. Forse l'intervista del giorno mi pare quella di Giancarlo Giorgetti, insomma l'uomo forte della Lega, quello che è considerato un po' il vice di Salvini, e siamo a pagina 7 del Corriere della Sera, intervistato da Antonio Polito, che dice una parola chiara e definitiva sulla questione dell'idea di uscire dall'euro: resteremo nell'euro, io sono il responsabile esteri, decido io, e il fatto che nella squadra economica ci siano due anti-euro come Borghi e Bagnai poco conta. Parla di collaborazione sui migranti, l'idea è un po', e vediamo se Paolo Mieli sei d'accordo, l'idea è un po' di recuperare una dimensione istituzionale da parte della Lega, no? Dopo gli eccessi della campagna elettorale. Sì, forse c'è anche qualcosa di più, c'è l'idea di Giorgetti che ove mai si rendesse necessaria la Lega per un governo in questa legislatura, uno di quei soliti governi allargati di Unione Internazionale, di Unione Nazionale, la Lega è pronta alle credenziali per partecipare a un governo che va da Leu ai 5 Stelle, perché se cascasse questo governo, l'idea è che causa referendum, non stiamo a rifare la solita storia, alle elezioni non ci si va, e magari si va a un altro governo allargandolo fino anche alla Lega. È possibile, questa è un'ipotesi a cui si sta lavorando sotto traccia, e anche perché diciamocela tutta che quel governo con i 20 transfughi berlusconiani, parlamentari che non saranno mai rieletti, è un'operazione un po' disperata, e Mattarella più volte ha fatto capire che non gli piacerebbe tenere un governo. Già questo è stato un governo scombiccherato, in più immaginati un governo con 20 scilipoti, insomma sarebbe un razzi e scilipoti, i nostri eroi delle passate legislature, anche se poi persone degnissime che quando vanno a sostenere un governo tutti li esaltano all'inizio, poi si cominciano a prendere beffe di loro, complici alcune trasmissioni televisive che andranno a stanarli, a vedere che sono dei poveretti. Poi i famosi responsabili, sui quali punta molto oggi il Fatto Quotidiano, e dice: Conte ha già fregato Renzi, insomma c'ha pronti i responsabili. Fatto Quotidiano che, insomma, non possiamo non toccare la tua grande passione, caro Paolo, le sardine. Oggi in un classico schema italiano arriva l'appello degli intellettuali alle sardine, pagina 13, una lettera a Giulia, Mattia and Company per nuotare insieme oltre le gerarchie. La firmano tra gli altri Monio Vadia, Nadia Urbinati, c'è anche Sandro Ruotolo, c'è Piff. Senti, guarda, io mi ribello a questo tuo tono sarcastico nei confronti delle sardine. Le sardine, pensa. Domenico Del Rio, il sociologo, sul Fatto dice che la loro idea di fare quell'Erasmus nord-sud è addirittura geniale, perché così le sardine potranno andare a Maratea se sono di Chamonix o viceversa, e quindi c'è, se ne occupa il, questo lo vedo sulla Verità, se ne occupa persino Antonio Spadaro, che il direttore della Civiltà Cattolica, dice che questi contengono una cosa dello stare tutti insieme, che è un messaggio cattolico, hanno la benedizione del Papa. Poi vedremo che il Papa ha benedetto anche Lula. Sì, ne parliamo tra un attimo. Sì. E si permettono anche dei toni, per esempio le sardine criticano Bonaccini perché gli dicono la vostra autonomia, sai che l'Emilia è una delle regioni che ha chiesto più autonomia, non ci piace. Insomma, le sardine sono il centro del centro, se l'Italia è ridotta alle sardine è inutile che fai delle ironie, no, siamo alle sardine. Per carità, traffico. Questo è il City SUVA Volkswagen T-Cross, ma non è solo T-Cross, è T-Cross! E anche T-Cross, o T-Cross, ma anche T-Cross, e poi T-Cross, e T-Cross, e T-Cross! Che scegliere un'auto se puoi averne tante? T-Cross, more than one thing. Solo a febbraio, tua con Tech Pack di serie da 17.900 euro. Anche domenica e su Volkswagen.it. Forza Paolo, con il capo dello Stato Mieli, i problemi d'Italia saranno più lievi. Paolo Mieli, presidente, solo se prima di entrare al Quirinale si inventa il Mielum. Il Mielum è la nuova legge elettorale. Va bene, prosegue. È limitato il giudizio, i problemi dell'Italia saranno più lievi. Saranno risolti, quali più lievi? Certo, giustamente. Credo nel giro di 20 giorni, massimo un mese, tutto sarà risolto. Senti, prego Paolo, no, volevo andare sui dossier economici, no, che sono quelli che son sul piatto del governo, a partire da queste previsioni della Commissione europea che ci indicano fanalino di coda. Stavo proprio dicendo questo, stamattina leggendo sul Sole 24 Ore l'articolo di Beda Romano, mi sono accorto di una cosa incredibile, che le previsioni della Commissione europea hanno mantenuto stabilità per il 20 e 21 nonostante il coronavirus, questo quindi è un dato molto ottimistico, però limano il PIL italiano allo 0,3, l'Italia ancora fanalino di coda. Beda Romano ci rassicura che il Tesoro, il Ministero del Tesoro, dice che pesano fattori temporanei e bisogna attendere i dati sulla produzione di gennaio, per carità, sarà sicuramente così. Però leggo anche sul Corriere della Sera l'articolo di Ivo Caizzi, crescita, Italia ultima con Parigi e Berlino, Gentiloni dice ora investire, io vorrei vedere che non investissimo. E la UE rivede il PIL italiano e anche qui Panetta della BCE dice il clima un rischio per l'economia. Quindi se ci mettiamo che già in partenza siamo fanalini di coda e adesso arrivano gli effetti del coronavirus, è un articolo nascosto, nessun giornale fa la testata su questo, però noi che ci occupiamo anche di economia lanciamo un grande allarme. Tra l'altro il Sole 24 Ore presenta anche un'intervista con la responsabile di Moody's per il rating dell'Italia, Katrin Muehl-Bronner, la quale dice se ci fossero politiche fiscali in grado di aumentare, politiche di bilancio in grado di aumentare il debito pubblico e un aumento del rischio di uscire dell'Italia dall'euro, in quel caso sarebbe inevitabile ridurre il rating. E a testimonianza dei problemi dell'Italia c'è questa pagina 2 splendida che consiglio a tutti, Giorgio Santilli, che riassume quello che è il rapporto della Camera sulle opere prioritarie. A 20 anni dalla legge obiettivo, di queste opere prioritarie ne è stato completato il 21%, e questo dà un po' la misura di come funziona il paese. Paolo, ti vorrei portare su questo incontro tra, ne accennavamo prima, tra Papa Francesco e l'ex presidente brasiliano Lula. è particolare perché Lula è un condannato, eh? 12 anni, sì, è una grande eccezione. Ben inteso, io penso che Lula sia innocente, che quel processo contro Lula, ex capo di Stato del Brasile, sia un processo sospetto. Mi fa orrore che il giudice che ha condotto quel processo sia poi diventato ministro nel governo Bolsonaro, il giudice Moro. Insomma, finisco di dire la mia. Però è un dato clamoroso che il Papa accolga un condannato, un capo di Stato condannato per corruzione, poi non condannato per diritti che ha salvato degli migranti in mare, condannato per corruzione, per essersi fatto un palazzo, cose, ripeto, di cui io penso sia innocente, lo intrattenga per un'ora e soprattutto chi vedrà le foto sui giornali. Le pugne del Papa lo accarezza, lo benedice, gli sorride, insomma gli dedica un trattamento molto, non so come definirlo, molto coraggioso, molto insolito, molto, che significherà pure qualcosa e ovviamente manderà in rabbia Bolsonaro e tutti i brasiliani contrari a Lula. Insomma, è un fatto notevole, piccolo, sì. I giornali lo vedranno solo foto, non ci sono grandi analisi, anche perché la notizia è arrivata tardi, però ha un significato. Ha un significato. Mentre avrai visto quello che si dicono Trump e Bloomberg, io vedo sul Financial Times stamattina fanno un servizio. Si prendono a legnate in maniera brutale. Quello che sui tre giornali italiani, quello che dà più rilievo è La Stampa, no? Che... Sì, c'è un articolo bellissimo di Alberto Flores del Cais. Allora, i toni sono questi, che Trump gli ha detto sei un nano, sei un piccoletto, perché Bloomberg è di bassa statura. Bloomberg, tutto su Twitter ormai, e Bloomberg gli ha detto sei un pagliaccio che abbaia, e poi ha fatto tutti dei tweet successivi per dire che Trump ha ereditato le sue ricchezze e le ha disperse malamente. Non sei tu che hai fatto... hai messo su le ricchezze, insomma Berlusconi poteva dire le ricchezze mie le ho messe su io. Ecco, Bloomberg rimprovera a Trump di non essere come Berlusconi, di essere uno che si è trovato ricco da giovane e ha fatto una marea di fesserie, se ne dicono di tutti i colori, perché è importante, l'avrete capito, perché a marzo, il primo sì. Super Tuesday, tutti prevedono che proprio per il caos che regna fra i democratici Bloomberg scenderà in campo e sarà molto probabilmente lui, un miliardario sì. più ricco di Trump, a sfidare Trump. Bella scena per gli Stati Uniti. Allora, grazie anche per questa settimana, Paolo Mieli, lo ritroviamo lunedì, buon fine settimana, ci fermiamo, GR24 a tra poco con Maria Latella, avremo ospite Matteo Salvini, a dopo.